Tu diene novu chella nu poco poco rilla a passo li a tella. Dammi la cannettella, dammi due pigliatti. Yeah. passò.